Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Oltre 1 milione di euro è il bottino racimolato dalla banda specializzata nelle truffe agli anziani sgominata dai carabinieri. 8 le persone finite in carcere, mentre per una è stato disposto l'obbligo di firma. Il modus operandi era sempre lo stesso. Uno del gruppo agganciava un anziano in strada fingendo di essere un amico o conoscente del figlio da cui dovrebbe ricevere denaro. Quindi chiedeva all'anziano di provvedere per conto del congiunto al momento indisponibile. Per rendere credibile la richiesta, il truffatore contattava telefonicamente un complice che si fingeva il parente dell'anziano, a cui, sfruttando una comunicazione disturbata d'arte, confermava la necessità di versare il denaro. Le somme variavano dai 500 ai 5.000 euro. Quindi l'anziano veniva accompagnato in banca e gli si faceva ritirare la somma richiesta. Qui un secondo complice, di solito una persona incensurata e pertanto difficilmente riconoscibile da foto segnaletiche, fingendosi cliente dell'istituto di credito, controllava che l'anziano facesse quanto richiesto. Dove ciò non fosse stato possibile, la banda arrivava ad accompagnare le anziane vittime anche negli appartamenti. Truffe per farsi a danno degli anziani. Quanto c'è di vero? Io il giorno 1 giugno scrissi la mia rubrica settimanale per La Stampa e la inviai, dedicata appunto alla giornata nazionale contro le truffe per anziani, che si era svolta proprio 2 giorni prima con l'onorevole Filippo Bubbico, vice ministro dell'Interno. E ho scritto quello che era secondo me un interessante vademecum a cui gli anziani dovevano comunque fare fede, e tra le tante voci avevo scritto: quando andate all'ufficio postale a fare i bollettini, attenzione, non lasciare mai incustodito il vostro portafoglio, perché sono persone specializzate che bazzicano per gli uffici postali in attesa di anziani sprovveduti. Fiero del mio lavoro giornalistico, sono andato a pagare un bollettino alle poste. Sì, ogni tanto bisogna andare a pagare i bollettini, ci sono istituzioni arcaiche che solo con il bollettino si possono pagare. Vado, ho un lieve alterco con l'impiegato alle poste che mi dice che non si può pagare con le carte di credito perché quel giorno casualmente non funzionano le linee telefoniche, sempre così. Rimetto dentro bollettino e portafoglio e me ne torno a casa. Nel pomeriggio volevo andarmi a prendere un ghiacciolino, vado dal gelataio e chiedo il gelatino, vado a mettere mano al portafoglio, non c'era più. Ho passato una giornata d'inferno, banalmente, poi mi sono reso conto che non avevo più portafogli, carte di credito, tutti i documenti possibili e immaginabili, tessera sanitaria compresa. Dice: voi che ve ne importa? No, è importante, perché se io, che sono sicuramente anziano ma ancora proprio non rimbambito, avevo appena scritto un pezzo, quindi preso coscienza del fatto di fare grande attenzione ai truffatori e ai borseggiatori di poste, e comunque sia forte della mia esperienza, in qualche maniera sono uscito senza portafogli, una ragione c'è. 800240024. Sono infatti due tecniche distinte, una è quella del cosiddetto skimming, l'altra del cash trapping. Lo skimming non è altro che una vera e propria clonazione della carta con l'ausilio di una piccola telecamera e di un lettore ottico che permette in un tempo successivo di clonare la carta bancomat. Il cash trapping invece è un procedimento meccanico che consiste nell'inserimento all'interno del bancomat di una cosiddetta forcella meccanica. Il cliente, nel momento in cui va a effettuare un prelievo, porta a termine tutte le operazioni, ma il denaro 800240024, per paradosso una società che si dimentica degli anziani proprio sul fatto che l'anziano si sente solo, si sente smarrito, sente senza rapporti affettivi, e la vittima predestinata da tutta una serie di truffatori, ladri, ingannatori, ne abbiamo parlato più volte, si simulano amici, parenti, amici dei figli e via dicendo, se no li turlupinano in maniera molto diretta. Gli anziani sono ancora tra le poche categorie che portano denaro cash addosso, lo tengono in casa, diffidano le carte di credito proprio perché hanno paura che qualcuno gli rubi i soldi, quando vanno al bancomat li contano più volte perché non si fidano nemmeno del distributore dei soldi. Ma io ripeto, evidentemente esiste una specializzazione sempre più attenta a truffare gli anziani, quindi oggi parliamo dei, se possibile, i sistemi di prevenzione o di attenzione, anche se mi rendo conto, per quanto uno sia attenzionato, c'è sempre un momento di disattenzione in cui gli altri si insinuano. Fabio Menicacci, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Fabio Menicacci, segretario nazionale dei pensionati Confartigianato. Beh, io non ero felice a celebrare questa vostra giornata nazionale contro le truffe degli anziani e sono stato truffato, non sono ancora pensionato, ma evidentemente è così attenta la rete delle truffe che ci sono caduto pur essendone consapevole. Cosa può essere accaduto all'ufficio postale? Difatti la nostra informazione è rivolta a tutti, non solo agli anziani. Agli anziani in maniera particolare, perché sono la parte più debole di una società che non è più solidale. Però, come si dice, il momento del truffato passa a tutti, il momento di disattenzione. Proprio quando uno è sicuro di se stesso. Rifletto, quindi ho il portafoglio, lo appoggio qui, ho appena scritto, non bisogna appoggiarlo qui. Non so come mai. No, sono uscito e non ce l'avevo più. Abbiamo fatto questa guida molto semplice, rivolta con un linguaggio semplice. E io l'avevo appena letta, penso un po', proprio cornuto e marziano. ma succede, anche perché più delle volte uno non pensa che possa succedere a lui, che possa accadere a lui. Pensa sempre alle altre persone. In questa guida indichiamo i posti chiave in cui è maggiormente chiave, vittima. Purtroppo sono diventati tutti, dove c'è folla, al mercato, in banca, alla posta e dove circola denaro. E poi al bancomat, le truffe più sofisticate, o come ho sentito nella presentazione, la truffa che adesso sulla quale si sta cercando di porre rimedio è proprio quello che sfrutta la solitudine degli anziani, e la possibilità dei truffatori è quella di giocare sui sentimenti, mettere in contatto gli anziani con parenti che non vedono da tempo, per cui sono truffe studiate. Persone che diciamo c'è un format molto preciso, si finge di essere amici di un figlio, di un nipote, che ha bisogno improvvisamente di una somma di soldi per pagare un'assicurazione. Ma c'è anche, da quello che abbiamo rilevato, con le forze di polizia, perché noi come associazione pensionati abbiamo un compito diverso. Cerchiamo di informare e di prevenire. La polizia cerca in un modo diverso di far... Infatti questa campagna insieme al Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Polizia Criminale... Approfitto per ringraziare il Ministero dell'Interno, la Direzione Centrale della Polizia Criminale... Carabinieri, tutti ci sono. Generali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Guardi, sono talmente tante, le do subito della materia prima da poter commentare. Intanto ricordo il numero 800240024. Danilo. Salve. Spenga la radio però. Giusto? Ok. Allora, purtroppo nella mia famiglia è successo che mio papà, che ha 85 anni, è stato truffato davanti alla banca utilizzando questo metodo della telefonata. Cioè come succede? Come accade? Racconti. Praticamente è successo. Lui mi ha chiamato e mi ha chiesto se io ero andato dal meccanico. Guarda te, casualmente quella mattina ero dal meccanico veramente, quindi c'è stata anche questa coincidenza, e quindi questa persona, perché poi ti fanno delle domande particolari, praticamente l'anziano che dice il nome del figlio, ti fanno proprio una domanda, ti dicono tipo, ma abbiamo parlato con suo figlio, chi è Danilo? Sì, il Danilo, quindi usano anche delle tecniche psicologiche. Allora, all'inizio quando poi ho saputo tutto sono arrabbiato e poi pentito, perché poverino mio papà ha 86 anni, di questa cosa, dico a tutti quanti non arrabbiatevi perché purtroppo sono anziani, io mi sono arrabbiato, però alla fine ho capito che avevo sbagliato. A questo punto l'unica soluzione è bloccare, praticamente noi abbiamo fatto in modo che mio papà quando va in banca più di 200 euro non può praticamente incassare, e anche il bancomat praticamente gliel'abbiamo tolto. Ecco, dico solo non arrabbiatevi perché i nostri genitori sono anziani e si fanno prendere dalla commozione dopo, e il problema è che per qualche giorno lui è rimasto frastornato. Lo so, anch'io mi sento questo stato psicologico. Le do in diretta una notizia. Dunque, io sono stato all'ufficio postale dove è accaduto questo fatto due volte, l'ultima volta stamattina, due ore fa, poi ho eliminato tutte le mie carte e ho rifatto il duplicato di tutti i miei documenti. Adesso mi mandano un cartello che mi chiamano i miei colleghi di Milano, di Radio 24, dicono hanno chiamato dalle poste di Roma, Viale Mazzini, hanno ritrovato il tuo portafoglio alla posta, potete dirmelo anche un'ora fa, essendo io passato, non so bene quali siano, sono stato, ho girato, spero di no perché ho già chiesto tutti i duplicati, non so più che farci. Se è vero è una dimostrazione del potere della radio, quello che non sono riuscito a ottenere di persona l'ho ottenuto dicendolo per radio. Daniele. Sì, salve, buongiorno a tutti. Sì. Porto la testimonianza di mia madre, che è successo che verso Natale è stata truffata, però non telefonicamente ma per strada, da due donne ben vestite, una tra l'altro con l'accento anche francese, dicendo che dovevano cambiare dei franchi svizzeri e dovevano praticamente farlo alla svelta perché dovevano fare una donazione. Questa è parte della versione che ha detto mia madre, che ha 88 anni, quindi è stata un po' anche confusa nel spiegare l'accaduto. Sta di fatto che niente, mia madre, che tra l'altro è una che non apre neanche a nessuno che non conosce anche il citofono, cioè proprio una molto attenta a quelle cose, è andata in banca, ha ritirato 10.000 euro, è uscita, gliela ha consegnati e poi è stata portata al cimitero di Lodi, è stata abbandonata lì. Questo io non so come possa succedere una cosa del genere, perché mia madre, nonostante abbia 88 anni, è una molto sveglia. Beh, sono molto bravi, hanno delle tecniche psicologiche. Sentiamo solo un secondo Fabio Menicacci. Evidentemente chi sanno il fatto loro. Guardi, purtroppo i fatti raccontati dagli ascoltatori sono il pane quotidiano. Il pane quotidiano. Io dico una cosa soltanto, quello che ci siamo posti poi come obiettivo, di contattare il maggior numero di persone anche quest'anno, perché questa è la seconda campagna, tengo a precisarlo, e per riuscire a fare formazione e informazione. E l'invito che faccio a tutti, comunque, come il suo caso alla Posta e il resto, di denunciare il fatto alle forze dell'ordine. Sì, io ho denunciato perché immediatamente. Perché più delle volte, sì, specialmente gli anziani o chi si sente truffato, entra in un, come si dice, si in una situazione psicologica che gli sembra brutta aver fatto la figura, vi permetta il termine, del fezzo in quel momento. E lo so, stanno zitti. E non va a denunciare l'accaduto. Quindi oltre ad essere un bersaglio facile, è un bersaglio che non denuncia, quindi è doppiamente appetibile. Non denunciando, le forze dell'ordine non hanno possibilità di indagare. È meglio una denuncia in più, meglio 20 segnalazioni in più. Questo lo dice anche le forze dell'ordine, che però permettano poi di individuare chi sono. Certo, se è vero che hanno ritrovato il mio portafoglio, adesso lo fare ritroso tutto il giro e dire no, scusate, abbiamo scherzato, quando saranno già partite. Sì, ma è meglio così. Certo. Se mi è permesso, le parole chiave della nostra campagna sono tre: sicurezza, libertà e vigliaccheria all'ultimo. La sicurezza, perché crediamo che è un bene inestimabile, soprattutto per gli anziani, che dopo una vita di lavoro dovrebbero vivere il resto dei propri giorni con tranquillità, cosa che invece non riesce. Libertà, perché è un diritto inalienabile, che dovrebbe essere libertà di muoversi, di uscire di casa, libertà di fare quattro chiacchiere senza aver paura di chi non si conosce. La vigliaccheria, perché non c'è dubbio che chi approfitta di una persona anziana, che è una persona più vulnerabile, più fragile, è un vigliacco certamente. E non si rende conto che al di là dell'evento delittuoso, cioè della truffa, il più delle volte crea un trauma psicologico all'anziano. Si fermi un attimo, diamo un attimo le informazioni del traffico e poi riprendiamo e continuiamo con i consigli. Intanto io verifico la mia posizione personale. Grazie. Melog, cronache meridiane. Sono andato a pigliare tutto li sono andato a pigliare. È entrato in casa, mi ha cominciato a dire: guardi, noi abbiamo dei macchinari che si depura l'acqua. Sì, però, dice: senta signora, questo macchinario distrugge le cose d'oro, se c'ha qualcosa, l'oro, l'argento. Dice: guardi, se c'ha, metta tutto in un sacchetto. Allora io ho preso tutto il che c'avevo. 800240024. Che bello, non sono un anziano truffato. Almeno se le notizie avranno conferma, adesso attendiamo conferma, pare che abbiano ritrovato il mio portafoglio alle Poste, o qualcuno se l'era preso, mi ha sentito per radio, ho pensato di riportarlo, non so bene, ormai che me ne riporti a fare, che ho chiesto duplicate di tutto, quindi comunque starò 15 giorni guardando il cielo. Sentiamo qualche ascoltatore. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo un pochino ribadire quello che ha detto quel signore che ha parlato prima di me, consigliando davvero di non gridare l'anziano, perché l'anziano è fragile, quindi guarda. Se non si metta a piangere, l'hanno truffata, lei è un'anziana truffata? No, sono la figlia, ma mi viene da piangere perché la mia mamma non c'è più e le è successo 10 anni fa e io e mio fratello ci eravamo arrabbiati tantissimo. L'avete sgridata? Sì. Sì, l'abbiamo sgridata perché ha fatto una cosa assurda, perché l'hanno fermata per strada, allora c'aveva 84 anni. E che l'hanno detto? 84 anni, le hanno raccontato la solita storia, lei poi in seguito aveva sostenuto di essere stata ipnotizzata, questo non so se è vero o no, veramente è stata una cosa stranissima. Ma cosa l'hanno detto? Che erano amici dei figli? Detto che stavano andando dall'avvocato a ritirare una grossa eredità, che però ci volevano dei soldi. È un classico, assolutamente un classico. E mia madre, che non sale, che timorosa, era salita in macchina con queste due persone. Sì, ma sono bravissima a convincere. Guardi, il truffatore professionista truffa chiunque. Ci vuole uno sforzo. Noi siamo persone ben educate. Prima di mandare a quel paese una persona, ci poniamo qualche perplessità. L'istante della nostra perplessità diventa una fessura aperta, entra nella nostra buona fede e uno non se ne rende conto. Anna, l'abbiamo già fatta, allora facciamo Francesca. Salve, mi è capitato, ero giovane, avrò avuto 20. Comporre il numero del destinatario. È caduta, è morta. Benissimo, sentiremo dopo se avremo altre notizie. Anna, l'abbiamo sentita? Sentiamo Gianluigi. Gianluigi. Pronto? Lei ha un format più originale, ancora inedito. Cosa le è successo? Sì, la saluto perché io la sentivo Nicoletti 20 anni fa, quando faceva Golem sulla Rai. Quando ancora non eravamo rincoglioniti, non ci perdevamo i portafogli. Allora, eravamo ragazzi, ho 61 anni, ne avevo 41, ma insomma sono ancora sveglio. No, volevo raccontare un episodio che è successo a mia madre qualche tempo fa. Sì. Fu ricoverata in ospedale perché aveva dei problemi, logicamente, però era abbastanza non grave, era abbastanza sana di mente, lo è ancora, 90 anni. E nell'ospedale circolano delle persone probabilmente ben vestite, ben messe, si spacciano come monache, aiutanti o quant'altro. Vestite da suore? E la mamma, come? Vestite da monache? Sì, io non mi ricordo bene se era una monaca o lei si spacciò come queste praticanti, sai che vestono anche in borghese, però fanno. Ah, una monaca in borghese, ci sono una monaca in borghese. Poi c'aveva fatto la tessera da monaca, ce l'aveva, il tesserino ce l'aveva probabilmente. Ma sono di queste, alle volte si presentano come delle associazioni di beneficenza, insomma, la misero un po' meglio. La mamma parla perché chiacchiera con tutti, la raccontò dove abitava, eccetera, eccetera. Qualche giorno dopo tornò a casa, bussò una signora ben vestita, ben messa. Si presentò su, la mamma la aprì perché l'aveva, si ricordava di questo personaggio, sì. La ipnotizzò in casa e gli portò via quanto di più poteva portargli via. Il bello di tutto questo è che la mamma ha rimosso dalla sua testa questo coso, se ne ricorda, però è come se questo non fosse successo, cioè l'ha ipnotizzata in una maniera. Ha dimenticato tutto, rimosso tutto. Fermo un attimo, voglio una conferma di questo, perché su queste cose di tanti ipnotisti non è una cosa semplice ipnotizzare una persona. Fabio Menicacci, ricordo, segretario nazionale dei pensionati Confartigianato. Non è che dietro questa cosa dell'ipnotismo c'è la rimozione di non voler fare la figura con i figli e i nipoti? Dalle risultanze che abbiamo noi delle forze dell'ordine, casi come questi esistono. Ora, che sia ipnosi o sia suggestione o un modo, come si dice, psicologico di cancellare un fatto brutto che ci è accaduto, questo. Quindi accade veramente che le persone riescono a forzare la volontà con sistemi. Beh, diciamo che il truffatore riesce, come diceva lei, è preparato, riesce a convincere. Beh, è il loro mestiere, uno di mestiere. Sentiamo Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao Nicoletti, sì. Buongiorno. Allora, io volevo parlare della testimonianza di quello che è successo a mia nonna qualche anno fa, sarà stato 3-4 anni fa. In pratica l'ha avvicinata una signora in strada, stava entrando nel suo portone dicendole che c'era sua cognata, quindi la moglie di suo figlio, che doveva lasciare delle lenzuola, o era un oggetto del genere, insomma, diciamo che era lenzuola e asciugamani, e che doveva darle dei soldi per questa. E ha tirato fuori tutta una storia, tutto l'albero genealogico, cioè questa signora ben vestita era informatissima su tutti i nomi dei suoi figli, dei suoi nipoti, quindi anche il mio nome, e si è inventata tante di quelle storie per cui mia nonna era quasi convinta a comprarle queste lenzuola. E io ad oggi non so ancora com'è possibile che questa signora si sia informata così bene. È addirittura arrivata a dire che praticamente qualche anno fa mio nonno è morto, quando io ero più piccolo, mio nonno è morto per cirrosi epatica, e questa signora era informata anche di questo. Vabbè, ci sono anche i portieri, si prendono delle informazioni. Sentiamo sempre Menicacci, come fanno ad avere informazioni dettagliate sulla vita personale dell'anziano? Si informano? L'avevo accennato prima, più delle volte se sono truffe studiate, e i malviventi hanno studiato il personaggio, sanno tutto. basta seguirlo alla spesa. Nel quartiere basta informarsi con un'altra persona, con i portieri. Uno segue una persona cose. Quando fa la spesa, poi la segue, sì. Poi basta una frase, una parola, è una catena. È molto più purtroppo, facile di quanto sembra. Come si dice, hanno aguzzato l'ingegno molto di più delle... Anche perché diciamo che il gioco vale la candela, hanno una vittima inerme che non fa nessuna resistenza e non denuncia. Questa è la cosa infame e vigliacca. Daniela. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire, non solo per la strada succede, però purtroppo, però anche in casa. A me è successo l'anno scorso con mio marito, che non è anzianissimo perché ha 74 anni. Quindi ancora è sano di testa, sì. Sì, purtroppo è parkinson, insomma, ma sì, di testa è abbastanza... Che gli hanno suonato il campanello di sabato mattina, cosa io di sabato non manco mai, che controllano appunto se uno va via, se torna o che, dicendogli che lo mandavo io, li mandavo io, una signora ben vestita, alla fine poi gli ha detto mi sento male, mi può offrire un caffè, qualcosa così, insomma lui alla fine si è accorto che questa è entrata in camera e rufolava nei assi. In camera a letto l'ha portata per rianimarla suo marito? No, da sé, lei ha aperto la porta perché... E si è infilata sul camera da letto che sentia male? In camera da letto di mia figlia. Che il suo figlio, lì, il suo marito non ha fatto resistenza? L'ha vista, quanto, infatti gli ha detto cosa fai? Ah, nulla, cercavo qualcosa, dice, per rianimarmi. Però lui a quel punto ha capito, però ha avuto paura. Si è spaventato perché... Sì, però guardi, in questo caso era informata suo marito a qualche piccolo problema fisico, perché normalmente... Entra una signora in casa un uomo e si butta a letto, dice io quella mattina rianimami. Non sono tornata, hai capito? Si è approfittato. Io ho fatto la denuncia, che cosa mi hanno detto le forze dell'ordine, non serve, cioè ormai, diciamo tra virgolette, non serve a comunque niente. Comunque una signora ben vestita, ma era piacente oppure anziana? No, una signora da accento meridionale, mi ha detto mio marito, che poi ritornando al discorso che poi si vergognano, che a me non me l'ha detto subito, io sono tornata verso le 10. Anche perché era un po' imbarazzante da spiegare che entra una signora in casa, si butta a letto, rianima, mi sto male così, ci giocano un po' anche su questo. Ritorneremo sull'argomento assieme a Fabio Menicacci, perché vedo che i telefoni stanno esplodendo dall'interesse per le truffe verso gli anziani e non solo, anche i signori di mezza età come me. A presto.